X24 di Giovanni Minoli. Una semplice porta di legno in un paese africano dilaniato dalla guerra civile. Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L'anno santo della misericordia viene in anticipo a questa terra e per tutto il mondo, i paesi che soffrono la guerra, chiediamo la pace. Doye Siriri, Doye Siriri. There's a secret chord that David played and it pleased the Lord. Quasi 3.000 diocesi nel mondo dove per un anno è stata aperta una porta santa. Porte aperte in tutto il mondo, in Cina, in India, in Canada e in Terra Santa, nei campi profughi dei cristiani fuggiti dall'ISIS e nelle zone terremotate del centro Italia. E in Georgia, dove una chiesa non c'è e la porta è a cielo aperto, il Papa ne spiega il significato più profondo. Attraverso queste porte il Signore entra e dà un sapore nuovo alle cose, ma quando la porta del cuore si chiude, la sua luce non arriva, allora ci abituiamo al pessimismo e finiamo per rinchiuderci nella tristezza. Se invece spalanchiamo le porte della consolazione, entra la luce del Signore. Alleluia, alleluia. Porte di legno, metalliche e in mezzo al deserto, e poi nelle carceri dove Papa Bergoglio ha voluto che la porta di ogni cella fosse eletta a porta santa. Loro come noi, l'attenzione sempre accesa sui migranti, porte aperte per abbattere muri e costruire ponti. L'unico paese senza porta santa è la Corea del Nord. L'ultima porta a chiudersi è quella della Basilica di San Pietro. Alleluia! Dunque tutte le porte del Giubileo della Misericordia volute da Papa Francesco si sono chiuse. Ma com'è stato il Giubileo voluto dal Papa? Intanto, non è stato un giubileo romano centrico celebrato nelle 2898 diocesi di tutto il mondo, è stato il primo giubileo diffuso della storia. Niente ad unate oceaniche, ma comunque oltre 20 milioni di pellegrini arrivati a Roma. Il vero protagonista, secondo il cardinale Angelo Bagnasco, è stato un popolo che non è oggetto di riflettori, che non va sulle prime pagine dei giornali, che resta quasi sempre invisibile. Insomma, tanta spiritualità e poco business. Ecco, Monsignor Liberio Andreatta, responsabile dell'opera romana Pellegrinaggio, per voi il Giubileo è stato un successo? No? Esattamente un successo, perché abbiamo ottenuto quello che il Papa si prefiggeva, cioè una rinascita spirituale e un riscoprire quella misericordia di Dio che in un momento difficile come questo in cui stiamo vivendo il mondo ne ha molto bisogno. Però, Monsignore, 20 milioni di pellegrini contro i 25 del Giubileo di 2000, del 2000. Perché questa differenza secondo voi? Ma sono due cose totalmente diverse. Il Giubileo del 2000 è un giubileo ordinario preparato 4 anni prima ed era soprattutto centrato su Roma, mentre questo era un giubileo straordinario annunciato pochi mesi prima dell'inizio e aveva lo scopo tra l'altro di essere vissuto nelle diocesi e non a Roma. Anzi, le dirò grasso che cola tutto ciò che è venuto a Roma, perché lo scopo del Papa era viverlo nelle proprie comunità. Nelle proprie comunità, ecco. E infatti è stato il primo giubileo in qualche modo diffuso della storia con l'apertura delle porte sante in tutte le diocesi. Ma che significato ha avuto questa scelta? È una scelta per la quale la misericordia di Dio non è legata a un luogo e non è legata a una sola tradizione, ma è insita nell'ambito delle comunità locali. Cioè quella misericordia non è solo a Roma, simbolicamente può essere a Roma, perché Roma è madre e capo di tutte le chiese ed è esemplare, ma la realtà delle comunità cristiane del mondo non le vivono a Roma, ma le vivono dappertutto, ognuno la sua. Ecco, Monsignor Andreatta, ma che significato ha spiritualmente attraversare la Porta Santa? E vedi, è un gesto. lei sa che tutti i valori sono fatti di gente. Che significato ha nell'amore dare un bacio? Che significato ha dare un abbraccio? L'uomo è fatto anche di sensi e ha bisogno di esprimere anche attraverso gestualità e simboli quel passaggio, certo, attraverso una porta, come dire: voglio cambiare vita, voglio entrare in un altro spazio della mia realtà, sia umana che spirituale. Ecco, ma milioni di pellegrini che comunque hanno scelto di venire a Roma, però non si sono quasi visti, come mai? Beh, non è vero. Come no, naturalmente a San Pietro sì, ma nella città, insomma, non tanto. Ma guardi, io credo che sono giocati... Ma forse è meglio. Giocati due elementi. Primo, essendo che viviamo in un momento in cui la paura, il terrorismo, la crisi economica e tutta la situazione di instabilità ha fatto in modo che quelli che sono venuti hanno preferito venire solo per l'evento e rinviare magari al prossimo anno giornate di turismo o di permanenza in città. E poi è stato un giubileo che è caduto in mezzo a una crisi politica, commissariamento del Campidoglio. Quello ha giocato molto meno. Io credo che i due elementi fondamentali siano stati la paura, il terrorismo e la crisi economica, ma soprattutto un fatto che erano invitati a farlo nelle loro chiese. Non c'era, no, ma questo d'accordo, è chiaro, questo per quello fuori da Roma, ma adesso parlavamo di Roma. Lei cosa risponde, se c'è una risposta, agli albergatori che dicono che per loro il giubileo è stato inesistente, un flop? Ma, io da quando sono a Roma da 40 anni ho sentito lamentarsi gli albergatori anche del 2000, quindi questa è un po' una nota, è un leitmotiv, sì, una nota normale. No, ma c'è un fatto. Guardi che in condizioni come queste di crisi economica e di terrorismo ringraziano gli albergatori, perché la presenza dei pellegrini dell'anno santo, del giubileo, della misericordia ha limitato il danno. Avrebbero avuto una diminuzione molto più grande se non ci fosse stato il giubileo. Li ha aiutati a diminuire i guasti. Ma si può dire che c'è stato un evento più significativo di questo giubileo? Non so, Padre Pio, per esempio? Ma io penso che quello più significativo sia stato quello di Madre Teresa di Calcutta, il volontariato. Sì. Quello, al di là poi anche quello dei carcerati, dei marginati, ma quello di Madre Teresa credo sia stato l'elemento, il momento... Però per Padre Pio è arrivata tanta gente. Sicuramente. Ma vedi, ma per Padre Pio sono arrivati soprattutto da Roma, Lazio e dintorni, al centro Italia, mentre per Madre Teresa è stato più internazionale. Senta, ma l'arcivescovo di Milano Scola ha parlato di un fortissimo incremento di partecipazione ai sacramenti. Il Papa anche è sceso in piazza a confessare i fedeli. Ecco, questo giubileo, secondo lei, ha avvicinato nuovi fedeli? Sì, moltissimi. E ha soprattutto fatto ritornare molti che prima, per motivi magari personali, con la parrocchia, col parroco, o per motivi del matrimonio, per motivi della comunione, della cresima, cioè per motivi futili, avevano rallentato in qualche modo intiepidito il rapporto. Questi stanno tornando. Ma nel giorno di chiusura del giubileo il monito del Papa, di Papa Francesco, è stato: basta parlare di Dio che castiga. Ma a chi era rivolto questo appello? Adesso, se il Papa nelle sue intenzioni voleva rivolgerlo a qualcuno, bisogna chiedergli a lui. Vabbè, ma lei che interpretazione ha dato? Questo messaggio noi lo diciamo in continuazione. Sì. Io lo dico da 40 anni nei santuari, quando porto i pellegrini dico nel santuario: basta, dico, pensare che qui c'è un Dio che ti vuole rimproverare. No, qui c'è un Dio che ti ama e ti accoglie a braccia aperte. Il significato del santuario, il Papa non ha detto una cosa nuova. Senta, Monsignore, ancora una cosa. La chiusura del giubileo coincide con la chiusura del concistoro, la creazione di nuovi cardinali. Come cambia il collegio cardinalizio di Papa Francesco? Intanto c'è un rapporto fra le due cose, immagino. Sì, ma io penso che lui voglia dare proprio alla fine dell'anno della misericordia un segnale che la Chiesa è universale. Avendovi parlato sempre degli ultimi, dei lontani, delle periferie, è andato a cercare quei vescovi e quei, diciamo così, missionari che nell'ambito delle periferie del mondo hanno una sensibilità diversa di non di chi, per esempio, vive nell'Occidente, in America, certo, all'interno delle grandi città. E questo... dare una linfa nuova e soprattutto una spinta innovativa alla Chiesa. E questo cambia la geopolitica del conclave, naturalmente. Ecco. Sempre più a somiglianza di Francesco, in qualche modo. Sempre più a somiglianza del Vangelo. Ecco, noi ne abbiamo un altro di Francesco qui in studio con noi, Francesco Rutelli, che è oggi presidente dell'ANICA, che ha governato Roma dal 93 al 2001, è stato il sindaco del giubileo del 2000. Buongiorno Rutelli. Buongiorno, ecco, a voi. A lei buongiorno, è piaciuto Minoli. Questo giubileo? Giubileo radicalmente diverso, come anche diceva adesso Andreatta. Il Papa è Papa in quanto Vescovo di Roma. Sì. E la Chiesa si chiama cattolica perché cattolico vuol dire universale. Ecco, in questo equilibrio sicuramente questo giubileo è stato molto più universale che romano. Senta, lei ha partecipato a qualcuno di questi eventi? Io ho scoperto di attraversare almeno 5 porte sante. Ah, senza saperlo? No, nel senso che trovandomi in giro per il mondo, entro in chiesa a Valencia, a Filadelfia, a Napoli, all'aeroporto di Fiumicino, sono andato a dire una preghiera un giorno e c'era la Porta Santa. Poi ho partecipato alla giornata di Madre Teresa. Vabbè, e ho fatto una camminata bella, ho portato un sacco di persone in questo cammino, abbiamo fatto un piccolo cammino di 30 km a piedi verso San Pietro e abbiamo attraversato la Porta Santa. Senta, comunque soltanto 42 dei 146 cantieri che erano previsti sono stati aperti, 25 milioni di euro sono ancora disponibili, non sono stati spesi per lavori che dovevano essere utilizzati durante l'anno santo. Ecco, questi soldi, che se ne fa? Cosa capiterà? Diciamo, il bilancio dal lato religioso l'avete fatto, dal lato civile è stato veramente inconsistente, lo dobbiamo dire. Anzi, aggiungo, è stato un bilancio che ha aggravato il pessimo giudizio degli italiani sulla utilità delle opere pubbliche. Certo. Se un qualunque cittadino va oggi a Piazza Venezia, ad esempio, esatto, e vede che il piccolo cantiere per la pavimentazione non è ancora finito, no, e ci sono dei pezzi sconnessi, ancora dei bandoni. Sì, sì. Cioè, abbiamo, e devo dire, siccome questo, una cosa voglio dirla, siccome per il giubileo precedente, il lato civile, c'era un papa che fece di Roma il centro del mondo, no? Perché era il giubileo del millennio, erano tutti grandi messaggi di Wojtyla. Questo è stato diverso perché la misericordia da parte di Bergoglio significa: parlo a voi che vi sentite scartati. Questa è stata la cosa importante. La quindi non vi chiedo di venere a Roma. È un giubileo rivolto comunque alle persone. Per Roma non ha sentito. Ma nel 2000 noi abbiamo dimostrato una cosa che voglio dire anche pubblicamente. Non è vero che tutto quello che si fa finisce in corruzione, fallimenti, ritardi. Non abbiamo fatto 800 opere pubbliche, non un avviso di garanzia una vittima dovrebbe sul essere lavoro. Così sempre. E dovrebbe essere normale. Sempre normale. Insomma, comunque, restando a quello di oggi, diciamo, è stato, Bergoglio dice che è stato un progetto che è venuto da solo, cioè non meditato, praticamente come sgorgato dal cuore in qualche modo. È possibile perché il Papa pensa a sé, magari. Però, che al giubileo ordinario lui non ci sarà più. Appunto. Comunque il successo religioso, diciamo, valutato con questi criteri può essere positivo, negativo. Sì. Una cosa sicura, l'abbiamo detto, successo economico per la città, niente. Giuseppe Roscioli, che è il presidente della Federalberghi, dice: ma l'effetto giubileo c'è stato per voi o no? Ma per quanto riguarda noi, no. Purtroppo una serie di concatenamento di eventi, a partire da quelli del terrorismo che hanno colpito Parigi, Nizza, eccetera, hanno fatto sì che il 2016 per tutta Europa, ma soprattutto per le capitali, fosse un anno un po'. E quindi niente effetto giubileo. Purtroppo Ma ci sono stati meno pellegrini del previsto, però sentire il Vaticano, no. Loro contano i passaggi della Porta Santa, è una cosa diversa, nel senso che anche gli italiani, i romani, coloro che abitano nelle province limitrofe, i quali vengono, fanno la Porta Santa. Però 20 milioni di pellegrini sono stati. Ma se consideriamo solo il bacino romano e dell'Interland, sono 6 milioni. Poi c'è da tenere conto che comunque a Roma hanno transitato 14 milioni di persone, e magari non dico tutte, ma una buona parte, visto che si trovavano a Roma, avranno fatto la Porta Santa, magari non sono venuti per quello. Ma sono stati intercettati, secondo lei, da strutture alternative, quelli che, diciamo, hanno fatto turismo? Sì, sicuramente sì, tra le altre cose questo fenomeno incontrollato ormai della recettività alternativa, certo, che poi tra le altre cose è completamente abusiva, fa sì che i prezzi siano molto molto bassi. E secondo lei sono molte? Beh, le do un dato. Su Airbnb ci sono circa 22.000 inserzionisti. Il Comune di Roma ha emesso autorizzazioni per 8.000. Fate la differenza. Certo. Ma qual è stato l'evento che ha attirato più persone a Roma quest'anno, finora? Un congresso di cardiologia a fine agosto a Roma. Quattro giorni, 35.000 persone al giorno. Qual è la previsione finale per il 2016 che fate voi? Per noi saremmo molto contenti se riuscissimo a mantenere gli stessi arrivi dell'anno scorso. Del 2016. Nel 2015 abbiamo chiuso con 14 milioni, il 2016 sarei contento se chiudessimo lo stesso a 14. Quindi insomma diciamo che il giubileo per quello che riguarda voi è passato e non ve ne siete accorti. Purtroppo no, purtroppo no. Vabbè, che sia stato un convegno di medici cardiologi a fine agosto, quello che ha portato più gente, una certa impressione lo fa, però si dice anche che abbiamo sentito la critica che gli ospiti, diciamo, delle strutture alternative, Airbnb, eccetera, breakfast, eccetera, invece sono aumentati del 55%. Lei è anche in qualche modo coinvolto, responsabile, non so esattamente. Mi ero chiesto un advisory negli Stati Uniti, ecco, non mi occupo delle questioni italiane, però è una cosa interessantissima. Bisogna che paghino le tasse tutti quelli che ricavano un profitto da questo. Quindi devono pagare le tasse. Ma è ovvio, e lo prevede la legge. Lo prevedeva la legge. No, adesso, lo prevede già adesso, perché se tu hai un incasso nella tua attività ordinaria, è evidente che questo viene tutto tracciato con le carte di credito e ci devi pagare le tasse. Ma quindi le strutture alternative, appunto, Airbnb, Bed and Breakfast e quant'altro, rappresentano una risorsa o un problema? Assolutamente una risorsa, se non sono illegali. Una risorsa perché c'è un turismo diverso dal turismo massificato, quello delle grandi crociere, che è molto più personalizzato, che spende di più e che rimane di più, ed è un supporto alla classe media. Quindi questi sono aspetti positivi e non negativi. Mi faccio dire che però per una città come Roma un aspetto positivo anche per il mondo è stata la sicurezza, perché non c'è stato, chiuso il giubileo possiamo dirlo, nessun avvenimento luttuoso. No. C'è stata una buona prova delle forze di polizia, dei carabinieri, dell'intelligence. Le dico, Minoli, che a Parigi, dopo la vicenda tragica di un anno fa, il Louvre ha perso un terzo di visitatori. Cioè noi abbiamo avuto... Vabbè, da noi non è capitato, non abbiamo... sono venuti, diciamo. No, diciamo che il giubileo non è, diciamo, dal punto di vista organizzativo... civile è stata una cosa, le pensi, non c'è stata una mostra, non c'è stata un'opera, non rimane nulla, Mario, dopo un anno così. Ma che fine ha fatto la cosiddetta norma Airbnb, che la cedolare secca per le locazioni di breve periodo? Non c'è. Poteva essere una risposta. Era una proposta da mettere nella manovra, e poi Renzi ha detto che non ci sarebbe stata nessuna nuova tassa. Non c'è. È un po' controversa la faccenda, secondo me, perché gli albergatori hanno ragione quando dicono che hanno comunque una concorrenza da questo settore. Io non dico che non debbano subirla, cioè che non ci debba essere Airbnb. Io dico che va regolamentata. Va regolamentata di più e meglio. È una spinta di innovazione e le regole vanno rispettate. Sì. Lo sa, Sicchi, che la legge sulla cedolare secca è una mia legge. Per gli affitti, quella per gli affitti, cioè che non ci sia un sovraccarico, ed è stato un buon aiuto quando ero in Parlamento, è stato un buon aiuto per i padroni di casa, tra virgolette. Pietrangelo, dimmi. No, tu che ne pensi di questo giubileo sommesso, diffuso, voluto da Bergoglio? Tipo è una specie di Olimpiade della spiritualità? Perché il giubileo non ha un indirizzo, è sempre sulla strada di Dio, e quindi immaginare di voler forzare una fatica tutta spirituale in un business, in una operazione fantasmagorica, e quindi positivo, più che positivo, solo preghiera, il Papa cammino, usa sempre questa associazione tra la spiritualità e il cammino. Ma non è che non posso fare un po' di bastione contrario, scusa Mario, ma non è che ha sbagliato il timing, come si dice, e il pontefice, perché secondo me Bergoglio sta entrando in una specie di trincea, diciamo così, solitaria, perché la fine dell'era Obama-Clinton, il giubileo adesso che non è andato bene, diciamoci la verità. Come no? Scusa Mario se ti interrompo, ti ricordi che avevano chiesto al pontefice di sospenderlo? Posso dare un paradosso? La maggioranza dei cattolici americani hanno votato per Trump, e nelle cattolicissime Filippine Ecco, porto solo questa riflessione. Il presidente Pistolero ha certamente un largo sostegno. Senta, dei cattolici. Questo vuol dire che il Papa ha qualche problema nel far passare questo messaggio pacifico. Senta, Rutelli, ma che effetto le fa vedere che per il terzo anno consecutivo Milano supera Roma per visitatori? Che Milano se lo merita. Come se lo spiega? Se lo merita perché una città, è una città tenuta bene, una città dove c'è spirito civico e la concorrenza fa bene. Senta, la Raggi ha chiuso il capitolo delle Olimpiadi, ha fatto bene alla fine? Ma l'aveva promesso in campagna elettorale. Ma lei era favorevole o contrario? Ero favorevole, perché mi spieghi lei, in una città che non è in grado di fare la riparazione di un marciapiede. Appunto, perché si debba rinunciare a Raggi. No, perché si deve rinunciare a 3 miliardi di euro di opere pubbliche. 3 miliardi di euro di opere pubbliche, chissà dove sarebbero finiti, perché se non si riescono a mettere i sanpietrini, abbiamo dimostrato altre volte che lo si può fare, lo si può fare bene e con onestà. Senta, l'organizzazione di grandi eventi, però è curiosa, la riflessione si impone, perché c'è stato questo giubileo, non è stato fatto niente dal punto di vista civile, sono passati 20, passati 20 milioni di persone. Un ponticello, allora io ho fatto costruire un ponticello per volontariato sulla Francigena. Poi forse, forse anche la riflessione su come bisogna immaginare le Olimpiadi, queste cose qua, uno stimolo alla riflessione viene da, questa cosa, vero. Onestamente. Guardi, un dato importante è questo: nelle nostre democrazie, in tutti gli ultimi casi in cui si è votato su grandi eventi, campionati del mondo di calcio o Olimpiadi, l'opinione pubblica locale ha risposto no. Questo vuol dire qualcosa, vuol dire che c'è sfiducia nel potere, e però non significa che ci si debba rassegnare. Non è rassegnare, forse bisogna pensare le cose in un altro modo. Oggi, grazie Rutelli, oggi dedichiamo la puntata dei gialli della storia alla vita tormentata e infelice di Jacqueline Kennedy, moglie del presidente John Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre del 63. E pubblicità.